in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa internazionale. Questo sabato iniziamo da Vox Europe. Forse il sabato scorso l'avevamo un po' trascurato, comunque non avevamo iniziato con Vox Europe, che è questo sito che vi segnalo sempre perché ha il meglio, o il meglio, comunque articoli molto interessanti su temi europei e non solo, tradotti anche da lingue non facilmente accessibili, e tra l'altro, mi dimentico sempre di dirlo, è anche arricchito da alcune delle vignette più interessanti sui temi di cui si tratta, e tratte anche in questo caso da tante pubblicazioni non italiane. L'articolo che vi segnalo oggi è di Eric Joseph, che tra l'altro è anche corrispondente dall'Italia per Libération, e si intitola L'Europa nel 2020, secondo Eric Joseph, ridare slancio all'Unione o affossarla. È, diciamo, opinione comune, anche perché è uno slogan che così è facile e breve da pronunciare, quello di dire l'Unione Europea deve cambiare, questo è l'anno in cui l'Unione Europea deve cambiare. Se ci pensate, davvero non esiste un'occasione migliore di questa, perché c'è stato l'evento traumatico della Brexit. Abbiamo una nuova Commissione europea che si è appena insediata e ha grandi progetti, soprattutto sul tema della svolta verde, della transizione verso una green economy, verso un'economia sostenibile dal punto di vista ambientale, e non solo. C'è un nuovo Parlamento, quindi effettivamente sono quelle occasioni da cogliere al volo. E scrive Eric Joseph, il 2020 comincia di fatto a 27, anziché 28 naturalmente, in particolare perché le società europee non sono state in grado di stare al passo con la storia per dimostrare che esiste un popolo europeo e che la Brexit non era una questione solo britannica ma comunitaria. E ve lo segnalo veramente perché, oltre a dare nuovi spunti sul tema Brexit, e sapete che resterà ancora di attualità perché è vero che il 31 gennaio avverrà questo uscita ufficiale, Boris Johnson ha addirittura organizzato una colletta che non si sa se avrà successo per riuscire a velocizzare i lavori di restauro del Big Ben in modo che questo famoso campanile di Londra possa risuonare il 31 gennaio, in realtà poi la data per tutte le procedure è il 31 gennaio dell'anno prossimo, e quindi insomma ancora per molto ne parleremo, quindi è giusto continuare a riflettere sul perché il Regno Unito sia arrivato a questo punto. Dalla Frankfurt Allgemeine Zeitung, sapete, domani a Berlino si terrà un vertice che potrebbe segnare, se non altro, un rafforzamento della tregua in Libia e forse anche tracciare un percorso verso una vera pacificazione che non sia soltanto una tregua in quel paese africano così strategico da sempre e così importante per l'Italia, anche perché sapete che la maggior parte delle rotte di migranti, quelle che riguardano il Mediterraneo, riguardano anche navi che partono dalla Libia, quindi non fosse che per la questione dell'immigrazione è un paese che cerchiamo, il Ministero degli Esteri e in generale chi governa questo paese cerca appunto di tenere monitorato. Vedremo, perché siamo fuori da questa trattativa, però i risultati saranno importanti anche per noi, quindi vedremo che cosa esce da questo vertice. La Frankfurt Allgemeine Zeitung ne parla diffusamente, ha intervistato molte persone e tutti quelli che sono intervenuti sui quotidiani tedeschi, attentissimi a questa questione, non solo perché ci sarà questo vertice a Berlino domani, hanno dato spazio a tante, tante opinioni, ma naturalmente l'opzione che tutti preferirebbero, credo ovunque, è quella di una soluzione diplomatica, e quindi, ripeto, che la tregua venga trasformata in qualcosa di più duraturo. A proposito di paesi che insomma hanno anche, oltre a occuparsi di questioni internazionali, e la Francia lo sta facendo, hanno anche questioni interne, Le Figaro torna sulla questione del consenso che hanno gli scioperi e la mobilitazione contro la riforma delle pensioni, e cita un dato, dice qualche giorno fa, netto calo della mobilitazione contro la riforma delle pensioni del presidente Emmanuel Macron. Secondo i dati diffusi dal Ministero dell'Interno, nell'ultima giornata in cui sono stati rilevati, sono 187.000 le persone scese in piazza, 23.000 solo a Parigi. Nella precedente importante mobilitazione, quella del 9 gennaio, il ministero aveva conteggiato un totale di 452.000 persone in tutto il territorio. Adesso vedremo, perché comunque ci sono anche dei sondaggi che testano le opinioni dei francesi, e secondo un sondaggio realizzato dall'Istituto Doxa d'Entrée per France Info e Le Figaro, il 55% dei francesi ritiene che l'annuncio del governo di ritirare provvisoriamente dalla riforma la contestata disposizione sull'età d'equilibrio a 64 anni, anziché i precedenti 62, è una buona decisione. Ci spostiamo su Financial Times, perché invece Financial Times si è occupato anche delle elezioni che ci saranno il 26 gennaio in Emilia-Romagna. Sono elezioni, come sappiamo, perché insomma lo ripetono i protagonisti, ma ce ne rendiamo conto tutti noi elettori, anche noi che non voteremo in Emilia-Romagna. Sono elezioni molto importanti, e Financial Times spiega, perché non è detto che, tra l'altro anche già per noi, a volte per noi italiani, è difficile capire queste dinamiche politiche e le dinamiche regionali che si innestano su quelle nazionali, immaginate per dei lettori non italiani, e quindi Financial Times dà spazio appunto alle mosse di Matteo Salvini, leader della Lega, e scrive Financial Times: Salvini punta a dar vita a un enorme sconvolgimento prendendo il controllo di un'area considerata tradizionalmente la casa spirituale del socialismo italiano. E anche qui forse per noi è scontato chiamare l'Emilia Romagna la regione rossa, a maggior ragione invece appunto a lettori non italiani questa cosa va spiegata. E poi naturalmente si spiega anche che si aspetta questo risultato perché potrebbe avere delle conseguenze a livello nazionale. Vi dicevo della colletta che Boris Johnson ha lanciato, ha invitato tutti i suoi concittadini a dare un contributo, ne parla per esempio il Times, appunto questa colletta in realtà va bene, però il problema è che non si può imporre, non si possono accelerare più di tanto dei lavori di restauro, e quindi probabilmente, nonostante siano stati raccolti molti soldi, sarà difficile che per il 31 gennaio si riesca a far scoccare l'ora della Brexit facendola risuonare grazie alle campane del Big Ben. Sempre dai giornali britannici ne ha parlato anche la BBC, c'è questa svolta storica, con anche naturalmente alcune polemiche, sempre nel Regno Unito, perché finora era vietatissima la presenza di telecamere all'interno dei tribunali, cosa che succede anche negli Stati Uniti, tant'è che spesso vedete degli illustratori al lavoro, dei disegnatori al lavoro all'interno dei delle aule processuali, e poi questa documentazione, diciamo, visiva si ha non una fotografia ma un'illustrazione. Infatti una legge presentata da Boris Johnson e sottoposta al Parlamento autorizzerà l'occhio dei media a riprendere a breve, appena sarà approvata, e sapete che Boris Johnson ha una maggioranza tale che almeno sulla carta può far approvare qualsiasi cosa proponga, e quindi appunto potranno entrare le telecamere e i giornali. Sul grande tema del cambiamento climatico, a cui abbiamo accennato, la svolta verde, un'economia più sostenibile, il grande obiettivo della commissione guidata da Ursula von der Leyen, e in Gran Bretagna si è parlato molto, naturalmente è stata trasmessa dalla BBC e poi ripresa da tanti altri quotidiani e mezzi di informazione, un'intervista che Sir David Attenborough, che è forse il più grande divulgatore scientifico in lingua inglese, quindi non solo del Regno Unito, e forse lo è in assoluto, ha questa intervista che ha dato, e dove dice: l'emergenza del cambiamento climatico è ormai una realtà, non è un pericolo, non è una prospettiva futura. Abbiamo rinviato le cose anno dopo anno, ora il momento della crisi è arrivato. E parla naturalmente anche degli incendi che stanno devastando l'Australia. Mentre parliamo, il sud-est dell'Australia è in fiamme. Perché? Perché le temperature del pianeta sono in aumento. Abbiamo sentito anche qui a Radio 24, a Effetto Giorno, con Alessio Maurizi, abbiamo sentito un esperto di clima che diceva non può essere direttamente, non si può dire che sia direttamente la causa degli incendi in Australia l'emergenza climatica, il cambiamento climatico, l'effetto serra, però sicuramente ha un ruolo. E passiamo invece, in questi pochi secondi che ci restano, è un articolo interessantissimo pubblicato da New Scientist che trovate anche su Internazionale di questa settimana e si intitola Farmaci immaturi. Perché immaturi? Perché sapete che i farmaci hanno la cosiddetta pipeline, cioè viene individuata una molecola che può essere interessante, magari viene arricchita con altre molecole, c'è una fase di studio, una fase di sperimentazione, poi la sperimentazione spesso sugli animali, ahimè, poi sull'uomo e infine la commercializzazione. Ma, scrive New Scientist, mettere rapidamente in commercio i nuovi medicinali dovrebbe servire a aiutare le persone che ne hanno bisogno. Spesso però significa rinunciare a studi clinici approfonditi. Il nostro medico conosce sempre i farmaci che prescrive? È una domanda che in effetti io solo sconsiglio una cosa, se posso permettermi, di non informarsi troppo su internet perché insomma a volte si entra nel panico o si rischia di ottenere informazioni sbagliate per quanto riguarda la salute. Non solo, però sbagliare sulla salute può avere conseguenze più gravi che non sbagliare su altri temi più leggeri. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.